Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, un buon sabato, ben ritrovati nel suo luogo lontano, 19:15, 45 secondi in questo esatto istante. La buonasera vi viene anche da Nadia Zammitti, Laura Fagini in redazione e in regia Filippo Aureggi. Vi ricordo che potete commentare, interagire con me via mail, nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, la pagina Facebook è nessunluogolontano-radio24, i 5T a @nessunluogo24. Allora, avete sentito, gli ultimi eventi maliani rischiano di far precipitare la situazione. Tutta quell'attenzione, quell'intenso lavoro diplomatico, si parlava, è vero, di un invio di truppe, ma si diceva settembre-ottobre del 2013, insomma, Ansar al-Din ha sparigliato le carte, ha fatto una veloce avanzata fino alla città di Konya e ha costretto Hollande a dire ai suoi è ora di intervenire. Quindi i francesi sono a Bamako, erano già, lo sappiamo benissimo, insomma, non visibili già nelle settimane scorse nel paese, elicotteri, jet, adesso ECOWAS, i paesi dell'Africa occidentale si accoderanno, entro lunedì dovrebbero arrivare un altro migliaio di uomini. Cosa accadrà? Solo il tempo lo dirà. Non è una guerra facile, chi ci segue lo sa, abbiamo parlato di Mali più volte. Sarà una guerra lunga, una guerra difficile. Si parla di un centinaio di vittime già per i bombardamenti, un pilota francese morto dopo che il suo elicottero è stato abbattuto. Vi daremo conto nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, ma adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di pirati. Perché parliamo di pirati? Perché tre giorni fa sono fortunatamente rientrati in Italia i tre marittimi connazionali sequestrati al largo delle coste della Nigeria il 23 dicembre scorso a bordo di un mercantile Lasso 21. La disavventura si è conclusa bene per loro, ma mentre le famiglie festeggiano, la Farnesina come sempre ha negato che vi sia stato pagato alcun riscatto, questa è la linea da tempo ufficiale del governo. In media, quasi tre navi al giorno sono assaltate da gruppi di uomini armati. I tre luoghi caldi sono più o meno Indonesia, Golfo di Aden, Oceano Indiano e Golfo di Guinea. Dico più o meno a spanne perché sono aree gigantesche. L'obiettivo dei pirati: sequestrare equipaggi per ottenere riscatti oppure rubare il carico delle navi commerciali. Chi sono questi bucanieri del terzo millennio? Quanto fatturano? Dove operano, appunto? E che cosa la comunità internazionale sta facendo per combattere il fenomeno? Con quali risultati? Queste le domande a cui tenteremo di dare una risposta oggi a Nessun Luogo Lontano. Dal Corno d'Africa allo Stretto di Malacca, dal Bangladesh all'Indonesia, dal mare arabo al Sud America, ai Caraibi, i pirati agiscono lungo tutte le zone strategiche per il trasporto marittimo e al ritmo di una nave sequestrata al giorno sono i protagonisti di un fenomeno delinquenziale che da 20 anni mette sempre più a rischio la vita e la sicurezza del personale marittimo. Basti pensare che nel 2010 i membri degli equipaggi presi in ostaggio sono stati quasi 1200. Secondo le stime dell'International Maritime Bureau, la somma dei riscatti chiesti dai gruppi di pirati nel corso del 2012 ammonta a 160 milioni di dollari e secondo gli studi condotti finora è previsto che la cifra continuerà a salire. Il riscatto iniziale chiesto per il rilascio di ostaggi oscilla tra i 10 e i 20 milioni di dollari. Le contrattazioni con le compagnie di proprietà delle navi assaltate possono durare anche molti mesi e la cifra chiesta oscillare tra i 2 e i 5 milioni. Il 2011 è l'anno che ha toccato il record contando 439 attacchi pirateschi e 802 ostaggi, catturati per la maggior parte al largo delle coste somale. Nel 2012 il numero degli attacchi di gruppi di pirati è diminuito a 278, anche grazie agli sforzi congiunti di NATO e paesi dell'Unione Europea, che cooperano attualmente nell'Oceano Indiano per difendere la regolare navigazione delle navi merci dagli assalti di motonavette pirata. I pirati somali rimangono al momento la minaccia più forte per la sicurezza marittima, essendo ogni anno gli autori di oltre il 50% degli episodi di pirateria nel mondo. Altre zone dove è forte la minaccia di assalti di gruppi pirati si trovano al largo della Nigeria e del Benin e, spostandoci verso il subcontinente indiano, al largo del Bangladesh e dell'Indonesia. Questi i numeri di un fenomeno che state sentendo a portata enorme, non solo dal punto di vista economico. Cercheremo di capire di più, di fare il punto, intanto partendo da quelli che sono gli aspetti giuridici, non per fare dissertazioni così un po' astratte, ma perché poi dal diritto discendono una serie di conseguenze pratiche. Allora do la mia buonasera all'avvocato Rocco Toffaletti, che è un esperto di diritto internazionale del mare. Avvocato Toffaletti, buonasera. Buonasera a voi e grazie. Allora, la prima domanda che le faccio è, individuiamo il quadro giuridico, cioè definiamo il reato di pirateria. Sì, dunque, come dice lei, senza fare dissertazioni in merito, direi che il quadro giuridico di riferimento per quanto concerne la pirateria è sostanzialmente incentrato sulle convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nello specifico dagli articoli 100 e seguenti. E la convenzione definisce la pirateria come qualsiasi atto di violenza, sequestro o rapina commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave verso un'altra nave in alto mare e per fini privati. E quindi qui viene escluso il movente politico, insomma, nella pirateria. Sì. E parimenti la convenzione impone un dovere di collaborazione in capo agli Stati per reprimere la pirateria in alto mare, facoltizzando gli stessi ad intervenire sia sequestrando le navi e eventualmente i beni a bordo e quindi agendo nei confronti dei pirati. E qua, avvocato, poi andiamo a toccare uno dei punti di prima, diciamo, ambiguità, quello che è l'apparato giuridico che regola la pirateria, cioè quando poi io mi imbatto in un pirata posso decidere, sto riducendo, sto banalizzando anche, insomma, se arrestarlo o meno, cioè se perseguirlo o meno, ma su questo punto ci arriviamo. Invece, avvocato, stia con noi, ascolti insieme, abbiamo raggiunto il capitano Mukundan, che è direttore dell'International Maritime Bureau, al quale abbiamo chiesto in massima sintesi qual è una mappa degli ultimi attacchi di pirateria marittima. The two main hotspots of piracy today are off the east coast of Africa. Ad oggi le due aree dove la minaccia di attacchi pirati è più forte sono entrambe al largo delle coste africane. La prima e la più pericolosa è la zona del Corno d'Africa e la seconda è il Golfo di Guinea, a largo della costa occidentale. Il Corno d'Africa è il luogo dove negli anni scorsi si è verificato il maggior numero di attacchi e dirottamenti di imbarcazioni. E i pirati somali sono riusciti a spingersi ben oltre la zona del Corno, fin quasi a raggiungere le coste indiane. Nel 2012 il trend degli assalti conta un focus nell'area della costa del Sudan e a nord del Golfo dell'Oman, nell'area attigua allo stretto di Hormuz. E questa è un'area molto importante perché una delle principali rotte energetiche nel Mar d'Arabia. I pirati a largo della costa ovest, invece, sono più interessati a dirottare imbarcazioni mercantili per rubarne il carico e una volta che la merce a bordo è stata rubata, di solito l'equipaggio della nave viene rilasciato entro al massimo 10 giorni e senza richiesta di riscatto. La violenza è usata in ogni caso dai pirati in entrambe le aree a cui ci riferiamo. E questo era il capitano Mukundan dell'International Maritime Bureau. Ma torno subito da lei, avvocato Toffaletti, perché insomma abbiamo creato poi aspettativa. Iniziamo da questa prima ambiguità giuridica, cioè non c'è un'obbligatorietà dell'azione contro i pirati. Che cosa significa questa cosa? Questo è uno dei problemi che sono stati riscontrati effettivamente, nel senso che la Convenzione delle Nazioni Unite dà la facoltà agli Stati di intervenire non imponendo un obbligo specifico di farlo e questo ovviamente è una delle ragioni che voglio dire portano all'attenzione sulla necessità di implementare l'operatività di queste convenzioni, la lotta contro, contro la pirateria, per l'appunto. Ecco, la lotta contro la pirateria è fatta anche a livello internazionale, non solo di singoli stati. Lì, poi, dove soprattutto pensiamo al caso della Somalia, la marina somala praticamente non esiste, quindi, e poi i pirati partono anche dalla Somalia. Quali sono le contromisure prese dalla comunità internazionale per prevenire gli attacchi pirata? L'abbiamo chiesto sempre al capitano Mukundan dell'International Maritime Bureau. Descriverò prima la similarità tra i due punti. Il modello di attacco in mare, per esempio, è molto simile. In entrambe le zone i pirati si avvicinano a bordo di imbarcazioni piccole e molto veloci, con a bordo dai 5 ai 15 uomini, tutti forniti di armi automatiche. Nella costa est africana i pirati utilizzano anche razzi e granate per assaltare le navi. Se queste rallentano o si fermano, allora i pirati riescono a salire a bordo e a dirottarle. Dunque, la metodologia di attacco e dirottamento delle navi in mare è più o meno la stessa. Tutte le altre pratiche sono invece differenti. L'obiettivo degli attacchi dei pirati somali nel Corno d'Africa è di capire di quante persone è composto l'equipaggio, così da catturare l'intera nave con il personale a bordo per tenerlo in ostaggio da 6 fino a 8 mesi, fino a che non ricevano il riscatto chiesto per il loro rilascio. L'obiettivo dei pirati nel Golfo di Guinea invece è solo quello del furto della merce a bordo. Non hanno un luogo a disposizione dove dirottare un'imbarcazione e tenerlo ostaggio per così lungo tempo, senza che la polizia intervenga. Questa differenza è sicuramente motivata dalla debolezza, quasi inesistenza, del governo in Somalia. Allora, non vi è sfuggito che questa era una risposta a un'altra domanda. La domanda era: che differenze ci sono fra i due teatri, quello somalo e quello nigeriano? Andiamo invece alle contromisure prese dalla comunità internazionale. This is very interesting because the Prima di tutto dobbiamo notare come sia notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti la quantità di attacchi pirata portati a compimento nel 2012. Questa riduzione è dovuta principalmente a tre fattori. Il primo è la presenza delle forze militari navali della NATO e di molti altri paesi coinvolti nella lotta antipirateria. E queste forze hanno un ruolo molto attivo. Dal momento in cui è noto il nome della nave dirottata o della nave pirata, partono immediatamente con la ricerca e il raggiungimento della nave catturata. Effettuano blitz a bordo per disarmare i pirati e fondamentalmente neutralizzare la minaccia, prima che si avvicinino troppo ad un'altra nave. Questa cooperazione internazionale in sicurezza marittima ha funzionato bene finora. Il secondo fattore è la presenza di squadre di sicurezza private a bordo di molte navi in rotta lungo le acque della Somalia. Dai dati raccolti e relativi allo scorso anno, sappiamo che proprio grazie alla presenza di corpi di sicurezza privati a difesa di navi mercantili sono falliti molti tentativi di attacchi pirata, che alternativamente avrebbero avuto successo. Il terzo fattore che ha permesso la riduzione degli assalti è che lo stesso personale a bordo delle navi cargo è oggi molto più determinato e preparato ad evitare incidenti, adottando manovre di navigazione più aggressive o altre contromisure che impediscano l'assalto alle piccole navi di pirati. Questa però è la fotografia del Corno d'Africa. Ben diversa è la situazione nel Golfo di Guinea, dove la sicurezza marittima è competenza degli stati rivieraschi, che quindi possono opporsi all'attività della NATO e di altre forze internazionali all'interno delle proprie acque territoriali, così come possono opporsi alla presenza di corpi di sicurezza privati a bordo di navi in arrivo nelle proprie acque. E in questo modo credo che il capitano Mukundan dell'International Maritime Bureau abbia in parte anche risposto a una delle sollecitazioni di una nostra ascoltatrice, Carmen, che su Facebook appunto si chiedeva se vi fosse una fattispecie anche di diritto penale, non solo diritto internazionale, dei sospetti arrestati. E poi Valerio che chiede: chi rifornisce i pirati di armi? Bellissima domanda. Beh, nel caso somalo sarebbe come chiedere chi rifornisce l'armeria di armi, perché uno dei paesi in cui girano più armi da fuoco, uno dei canali è ad esempio l'Eritrea, nel momento in cui rifornisce Al-Shabaab. Ma poi quando delle armi entrano in un paese, il mercato è fiorente, è facile farle passare di mano in mano quando non vi è uno stato solido, con strutture che i somali stanno tentando di costruire e che quindi controlla anche l'uso delle armi. Adesso tra poco andiamo di nuovo dall'avvocato Toffaletti, perché c'è un nodo fondamentale toccato anche dal capitano Mukundan, però prima facciamo una piccola pausa. Il gigantesco business dei bucanieri del terzo millennio a nessun luogo è lontano. Sono le 19:31 minuti 40 secondi e vado direttamente all'avvocato Toffaletti per aprire quello che è il delicato capitolo dei servizi di sicurezza privati a bordo delle navi. È una possibilità che una legge recentemente approvata in Italia consente, manca un decreto attuativo. Avvocato, ci aiuti a fare chiarezza su questo quadro normativo che è ancora, come dire, vacillante? Immagino si stia riferendo alla normativa del 2011, la legge 130, che conferisce la possibilità agli armatori di impiegare militari o contractor privati a bordo delle navi. Proprio quella, proprio quella. Noi fra l'altro abbiamo sentito i ministeri competenti, cioè che sono tre, perché è il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti e il Ministro dell'Interno, credo di non errare. Per quanto concerne i contractor privati, confermo. Ecco, certo. E questo decreto attuativo in realtà giace in un cassetto da un po', da parecchi mesi. Al momento la firma non è all'orizzonte. Questa firma è chiaro che cambierebbe le cose, basti pensare all'episodio dei Marò, di cui ci siamo anche occupati, cioè lo scenario cambierebbe completamente. Io vedo, devo essere onesto, un'ambiguità giuridica in questa possibilità, no? Di permettere o a corpi militari dello Stato o a guardie private di tutelare un interesse nazionale. È d'accordo con me, avvocato, o no? Sì, in un certo senso sì, diciamo che la legge dà la facoltà, cioè in assenza di, darebbe la facoltà, perché come dice giustamente non c'è un decreto attuativo o almeno non è stato pubblicato quantomeno e quindi al momento concerne solo i militari e comunque la legge consentirebbe l'utilizzo in via subordinata, mi parrebbe di capire, cioè laddove non siano disponibili i nostri militari. Sì, che nella fattispecie, spieghiamo, gli ascoltatori sono i fucilieri del San Marco, se non erro sono almeno una decina di nuclei, insomma quelli disponibili, i team sono di 6 persone, che andrebbero a sostituire in caso di impossibilità da parte del San Marco di salire a bordo di cargo battente bandiera italiana, appunto, a privati. Però, avvocato, il problema e la domanda che mi faccio e le faccio è: a quel punto la responsabilità di qualsiasi tipo, se accadesse qualcosa, se vi fosse un conflitto a fuoco, un ingaggio diretto, a chi fa capo la responsabilità dei, chiamiamoli contractor, ma diciamo dei vigilantes? Beh, questa giustamente è un punto abbastanza rilevante, cioè come giustamente fa notare, cioè la differenza è che per quanto concerne i militari la loro azione e l'eventuale impiego non lecito dell'azione coercitiva armata comporterà una totale responsabilità diretta dello Stato italiano. Viceversa, per quanto concerne i contractor privati, la responsabilità ricadrebbe sull'armatore. Quindi aprendo, insomma, scenari totalmente diversi. Da quelli a cui, insomma, siamo stati abituati ultimamente. E fra l'altro poi c'è anche un altro importante aspetto giuridico da sottolineare. Vi sono mari che la legge disciplina, nel senso che dice questa è una zona ad alto rischio di pirateria, qui si possono imbarcare uomini armati. Altre zone non lo sono, ad esempio a largo dell'Algeria non era possibile imbarcare uomini armati. È vero che poi le navi hanno dispositivi di sicurezza passiva, chiamiamoli così, importanti, c'è questa cittadella fortificata, insomma, che permette di guidare la nave in tutta sicurezza anche durante un assalto, ma di questo parleremo dopo. Avvocato, l'ultima domanda, in estrema sintesi le chiedo quasi un sì o un no telegrafico: gli strumenti giuridici a disposizione che la comunità internazionale ha sono sufficienti per combattere il fenomeno? Quindi vi sono anche stati processi, un migliaio di pirati catturati, 500 processati, un processo anche a Roma l'anno scorso. Serve qualcosa? C'è qualche lacuna nella legge? Oppure c'è solo di, come dire, armarsi di santa volontà, pazienza e magari qualche fucile e andare a pescare tutte le singole barche dei pirati? Guardi, sicuramente ci sono delle aree su cui si può intervenire. In primo luogo rendere obbligatorio quello che attualmente è una facoltà per gli Stati, ovvero da una parte cooperare tra loro ed intervenire per combattere la pirateria, dall'altro quella che riguarda la giurisdizione, cioè ovvero processare e condannare i rei e i pirati. E c'è da dire in questo senso che molti stati non hanno ancora adottato e non riconoscono il reato di pirateria nelle loro legislazioni interne, cioè, quindi la prima cosa è che riguarda i singoli stati e le singole giurisdizioni. E quindi sicuramente quello dove si può intervenire è questa obbligatorietà, che attualmente invece è una mera facoltà, diciamo così. Grazie allora all'avvocato Rocco Toffaletti, esperto di diritto internazionale del mare, per averci chiarito quelle che sono le zone d'ombra del reato di pirateria. Buona serata, buon grazie lavoro. Grazie a voi, buona serata. E dunque, siccome nessun luogo è lontano, io vi porto a bordo della Jolly Arancione, che è in navigazione nel Golfo Persico. Il comandante Bruno Facelli ci ha detto innanzitutto di quanti uomini ha la responsabilità a bordo del cargo. Siamo in 22 come personale, compreso me, di equipaggio. Oltre all'equipaggio, lei ha a bordo anche un nucleo armato, giusto? Sì, esatto, abbiamo un team di persone del San Marco a protezione appunto della nave. In questi anni di lunghi anni di attività, le è mai successo di subire un tentativo, un assalto, un abbordaggio da parte di pirati? No, per fortuna no, sono ancora fortunato, altri miei colleghi sono stati più sfortunati di me e hanno avuto questi tentativi di abbordaggio, io no, per fortuna ancora non ho di queste esperienze. Quanta paura c'è quando si comanda una nave come la sua in quelle zone, in quelle acque che insomma sono così... Ma guardi, paura non ce n'è, chiaramente non è che ci sia paura, perché se uno avesse paura non starebbe nemmeno sulla nave, farebbe cambiare le mestiere e andrebbe a zappare la terra. Chiaramente ci sono da prendere degli accorgimenti particolari che con altre navi, con altre rotte non si prendono. Qua purtroppo è una zona di pirati, che tra l'altro ormai la zona è diventata talmente grande che dove vai si incontra questa gente qua, praticamente tutto l'oceano indiano praticamente è preso da questa gentaglia qua, e chiaramente bisogna essere fortunati che non sia il giorno appunto dell'attacco. Quanto tempo passa della sua giornata col binocolo attaccato agli occhi a scrutare l'orizzonte, lei personalmente? Bah, guardi, io quando nella zona dei pirati praticamente sono sempre sul ponte, c'è l'ufficiale di guardia e poi ci sono anch'io, quindi diciamo che dalla mattina alla sera, dalla mattina alle 8 fino alla sera. La presenza dei fucilieri del San Marco a bordo la tranquillizza, le permette di dormire qualche ora serena? Sì, sicuramente sì, anche perché appunto avendo il team militare direi che siamo sicuri al 90%, direi, perché naturalmente ci possono essere anche i pirati, possono anche tentare l'abordaggio, ma una volta che dovessero avvicinarsi i militari cominciano a aprire il fuoco e quindi li tengono a debita distanza. Poi se loro volessero continuare ad avvicinarsi e provare a salire, chiaramente invece di sparare, diciamo così, i corpi di avvertimento cominciano a sparare sulle persone. Quindi direi che ci siano delle possibilità che possono salire a bordo e sono scarse, veramente scarse. Che raccomandazione le hanno dato, se posso chiederlo, i fucilieri del San Marco a lei nel caso di un'allerta? Mi può dire questo o andiamo guardi, in zone? In caso di allerta noi intanto facciamo delle registrazioni prima, dopo, tutto quanto, quindi sappiamo, tutte le persone sanno già cosa fare, dove andare nel caso di un tentativo di abbordaggio. Quindi sanno tutti quanti, io lancio un allarme chiaramente qua sonoro, quindi tutte le persone vanno direttamente, si recano in un locale apposta, che è la sede della cittadella, dove si mettono tutti quanti dentro, praticamente si barricano e nessuno può aprire la porta dall'esterno, quindi una volta che sono chiusi sono al sicuro. Comandante, l'ultima domanda riguarda queste procedure nel cui dettaglio non entriamo appunto per ragioni di sicurezza vostra. Voi fate esercitazioni, quante volte avete provato, quante volte avete simulato queste procedure? Guardi, ne abbiamo fatta una prima di entrare nella zona pericolosa. E poi l'abbiamo fatto un'altra stamattina assieme al team militare. giusto per sapere i tempi di reazione delle persone, quanto ci vuole appunto per andare in questa cittadella qua e per stare al sicuro. In quanti secondi o minuti voi siete pronti, siete reattivi? Secondi no. Diciamo che da quando lancio l'allarme, in 2, massimo 3 minuti tutta la gente è raccolta nella cittadella. Ho capito. Comandante, quando è che torna in Italia, lo posso chiedere? Guardi, io dovrei ritornare a Genova massimo per la prima settimana di febbraio, direi tra il 5 e il 6 di febbraio dovrei essere di ritorno. Quindi ancora 2-3 settimane di navigazione? Sì. Però diciamo la parte pericolosa è ridotta a quanti giorni? La parte pericolosa praticamente da quando si entra nel Golfo di Aden, quindi sono 8 giorni praticamente. Chiaro. Quindi il rischio insomma è una finestra temporale limitata. Sì, per fortuna. Grazie mille comandante, buon lavoro, buona navigazione. La ringrazio, prego. A lei, salve. Alla prossima, salve. E questo anche per restituirvi, come dire, la dimensione psicologica di un lavoro stressante, in parte anche rischioso, nel momento in cui si comanda una nave commerciale che incrocia in quelle acque. La vaghezza, diciamo, delle domande non è, come dire, mancanza di volontà di andare a fondo e dare precisamente informazioni, ma è per tutelare proprio la sicurezza di quegli equipaggi. Molti reti di pirati hanno anche informatori in Europa, quindi meno si sa su dove sono le navi, è meglio. 19:43, abbiamo il tempo, prima del traffico, quello su strada, di incrociare invece un'altra nave e di andare in diretta a parlare col contrammiraglio Antonio Natale, che è capo della missione NATO Ocean Shield, e siamo a bordo dell'ITS San Marco. Contrammiraglio Natale, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi in studio, a tutti coloro che ci stanno ascoltando in patria, qui da nave San Marco, nelle acque dell'Oceano Indiano. Anzi, siamo proprio nel Golfo di Aden, dato che prima ho sentito un collegamento sì. con un nostro mercantile. Ecco, allora, innanzitutto, contrammiraglio, le chiedo, la nave San Marco che tipo di nave è? La nave San Marco è un'unità anfibia che è integrata in un dispositivo navale della NATO. A bordo abbiamo circa 320 persone di equipaggio, di cui 20 fanno parte del mio staff, che è uno staff multinazionale con 7 nazioni rappresentate, e comandiamo queste 4 unità, tra cui il San Marco, un'americana, un olandese, una danese e una turca. E il nostro obiettivo appunto è questo, svolgere un'unità incentrata per il controllo e la protezione del porto mercantile qui nel Golfo di Aden, Oceano Indiano. Ecco, contrammiraglio, voi che dispositivi imbarcate a bordo? Sulla nave San Marco abbiamo 3 elicotteri, cioè una è H101, quindi un po' più grande e importante, e 2 più piccoli, una B212, e poi un team del reggimento San Marco. Quanti allarmi ricevete quotidianamente o alla settimana? Mi perdoni se il lasso temporale è errato. No, ma diciamo che da quanto ho assunto il comando di questa operazione, mediamente abbiamo ricevuto 15 attacchi reali, diciamo, e nessuno dei quali ha avuto successo, e 7 falsi allarmi, perché ci sono anche questi, ovviamente, perché quando un mercantile vede un barchino in avvicinamento, talvolta dà l'allarme e poi magari non è solo un barchino che è intento a fare altre cose e non attacchi. Quindi in media abbiamo circa 3 attacchi, 3-4 attacchi a settimana e 2-3 falsi allarmi. In questi numeri, che possono sembrare un po' esigui, in realtà sono frutto di difficoltà. Mi sente? Assolutamente sì, c'è un po' di disturbo, ma comprendiamo la distanza, insomma. Sì, grazie. Sono frutto, dicevo, di un'attività di pattugliamento e di ricerca che sia la nave San Marco che le altre unità navali effettuano quotidianamente, sia grazie agli elicotteri imbarcati e anche a degli aerei che sono basati a terra e che fanno un pattugliamento dell'area. Insomma, basti pensare che nel 2011, stesso periodo, c'erano stati ben 48 attacchi e 6 navi sequestrate, invece nel 2015 siamo scesi a 25 attacchi e oggi siamo, come si vede, la nostra presenza ha dato dei risultati sperati. E le cifre in questo senso parlano chiaro, l'abbiamo detto proprio a inizio trasmissione. Contrammiraglio, stia con noi, c'è il traffico, quello su ruota, dobbiamo ascoltare le ultimissime e poi le farò l'ultima domanda. E di nuovo in diretta nel Golfo di Aden a bordo della San Marco, dove c'è il contrammiraglio Antonio Natale, al quale chiedo, diceva 13 attacchi reali, le segnalazioni che avete ricevuto da quando lei comanda la missione. In un paio di casi vi siete trovati faccia a faccia, diciamo così, coi pirati. Ci può sinteticamente raccontare che cosa è accaduto? Abbiamo avuto due episodi dove in realtà poi non è intervenuta nave San Marco in prima persona, ma le navi sotto il mio comando, che sono state in realtà la danese una volta e l'americana in un secondo tempo, ovviamente perché interviene la nave più vicina. Quindi uno di questi episodi è stato il 15 dicembre, dove una petroliera, il Torm Cristina, nel golfo, nello stretto di Hormuz in vicinanza, è stata attaccata da due skiff. Sono saliti a bordo, l'equipaggio si è rifugiato all'interno della cittadella, ho sentito che già vi ho spiegato che cos'è, però è riuscito a mandare un messaggio di soccorso. Ricevuto questo allarme abbiamo ordinato all'unità danese che era in porto a Muscat di procedere verso il mercantile in difficoltà. E con brevissimo preavviso l'unità ha richiamato a bordo tutto l'equipaggio. In 4 ore ha raggiunto l'unità, è salita a bordo, i pirati nel frattempo, in vista, quando hanno visto l'unità, sono scappati e quindi sono riusciti a rimettere in navigazione l'unità. Ecco, contrammiraglio. C'è un altro episodio che è successo invece il 6 gennaio, quindi recentemente. Dopo poco il tramonto è stata assaltata, e qui hanno sparato invece i pirati contro un mercantile panamense. Questo proprio nell'Oceano Indiano, e a 30 miglia circa si trovava la nave americana, l'Halliburton si chiama, che è intervenuta prima col suo elicottero, poi è entrato un aereo, poi è arrivata, sono stati fermati aspetti pirati e attualmente sono agli arresti, sulla nave, una nave francese che è intervenuta in un secondo tempo, il Surcouf. Ecco, contrammiraglio, due ultimissime brevissime domande. Quando voi arrestate i pirati, poi a quale stato li consegnate? Allora, in realtà noi non arriviamo, noi li fermiamo, dopodiché devono essere rispettate delle procedure, ovviamente, e questo è in funzione degli accordi con i paesi o devono rientrare. Per quanto riguarda l'Italia, noi rientrano in Madre Patria e vengono giudicati poi in Italia secondo le leggi italiane. Se no, invece, se la nazione che è la nave che li ha a bordo o la coalizione ha degli accordi con i paesi riveraschi, come succede in questo caso, talvolta in Tanzania o a Gibuti, vengono consegnati con tutte le prove, che abbiamo raccolto. Certo. L'altra domanda invece è tecnica e viene da un'ascoltatrice che manda un SMS al 349-238-6666. La prima metà del messaggio è francamente quasi illeggibile. Quello che si legge però è, dice: ma com'è possibile per uomini, anche se armati, scalare grandi navi partendo da piccole imbarcazioni? Contrammiraglio, come fanno da questi piccoli barchini a salire a bordo? Allora, questi piccoli barchini che si chiamano skift, mediamente hanno o dei rampini con le cime oppure delle scale uncinate. E siccome mediamente si posizionano su navi che vanno a bassa velocità o in prossimità degli stretti, dove quindi la nave è costretta sia a rallentare e anche andare a rotte costanti, e quindi sono facilitati da questo. Ovviamente hanno motori potenti e quindi vanno anche a 30 nodi rispetto alla nave mercantile, che mediamente ne fa 12-15. Chiarissimo, e così ci ha aiutato a svelare anche quella che è una parte più tattica appunto delle azioni dei pirati. Grazie contrammiraglio Antonio Natale, buona navigazione e buon lavoro a bordo della San Marco. A voi, a tutti quanti. Arrivo. Vabbè, ma giustamente il fruscio era lì, no? Ogni tanto a ricordarci le migliaia di chilometri che ci separavano dall'incrociatore della nave anfibia San Marco, e giustamente anche sui saluti ancora questo memento sul chilometraggio e sulla distanza. A inizio trasmissione con l'avvocato Toffaletti abbiamo toccato un punto fondamentale, vi dicevo, di questo decreto attuativo che potrebbe permettere la salita a bordo di nuclei armati privati. Non chiamiamoli contractor, in realtà sono guardie di sicurezza private. E allora cerchiamo di capirne di più su quella che è la sicurezza affidata ai privati. Lo facciamo con Carlo Di Folco, titolare della DSA Delta High Risk Management. Di Folco, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, non la sento molto bene però. Allora, vediamo, facciamo una piccola prova. Io più di così non posso urlare. Vediamo se mi sente. Con lei volevo affrontare il capitolo di la funzione di protezione di navi senza armi, perché lei fino all'anno scorso era un servizio che forniva. Quanto è efficace e come funziona? Allora, volevo precisare che... Siamo assolutamente sfortunati in quest'ultimo lasso di tempo. Carlo Di Folco, che appunto ha una società che fornisce servizi di sicurezza, l'abbiamo contattato perché fino all'anno scorso lui forniva questa protezione senza armi e faceva anche addestramento e preparazione, training in questo senso. Adesso anticipo in parte, insomma, quelle che sono delle modalità, delle strategie che lui mette in atto. Una delle armi, pensate un po', ovviamente sono gli idranti, una cosa che non manca a bordo delle navi. Quella della sicurezza privata è ovviamente un capitolo fondamentale, un po' per il giro d'affari che può essere collegato, un po' perché quel decreto, lo dicevo, benché Confitarma, la Confederazione degli Armatori Italiani, spinga sui ministeri a che si firmi questa cosa, il decreto rimane lì. Fra l'altro, con le elezioni incombenti, non credo appunto che verrà a brevissimo. Vediamo se Di Folco ci sente stavolta. Di Folco, buonasera ancora. Sì, sono qua. In linea. Allora, ci spiega come funzionava, diciamo, la protezione senza armi, perché ormai non la fa più. Allora, la protezione veniva concepita in osservanza delle indicazioni date dal BNP4, che è una sorta di manuale che è stato emanato dall'IMO, dall'International Maritime Organization, che indicava quali erano le misure da adottare in caso di attacco pirata e tutta l'organizzazione che precedeva la formazione dell'equipaggio in modo da poterlo preparare in eventualità di questo genere. Salendo sulla nave, non solo appunto formavamo il personale in modo da farlo trovare pronto in caso di emergenze di questo tipo, ma ci occupavamo anche della creazione di tutte quelle difese passive che servivano proprio per poter contrastare e prevenire qualsiasi attacco. Ci faccia degli esempi. Queste difese passive consistevano nell'installare, e lo facevamo quasi sempre noi personalmente, una specie di protezione perimetrale fatta da un filo spinato particolare che si chiama Razor Wire, che è un filo spinato molto tagliente, in modo da impedire ai pirati di poter salire sulla nave. Altra misura che prendevamo, organizzavamo la possibilità di difenderci attraverso i cosiddetti cannoni ad acqua che in linea di massima tutte le navi hanno in caso di contrasto a incendi che possono avvenire sulla nave, o utilizzavamo le manichette dell'acqua ben posizionate in un determinato modo, in modo che una volta aperte potessero contrastare l'avvicinamento dei pirati. Altre misure che venivano prese naturalmente erano legate a soluzioni della strumentazione della nave, ovvero in caso di attacco, dopo aver effettuato tutte le azioni di allarme, aver avvisato il sistema di protezione marittima che noi abbiamo nel Golfo di Aden, dopo aver fatto lanciato l'SOS che segnalava attraverso un trasponder il punto esatto in cui era avvenuto l'attacco, sì. E da quel momento i soccorsi potevano seguirci. Ecco, tutto questo La interrompo di fuoco perché c'è la domanda di un ascoltatore al 349-238-6666 che si chiede: ma il trasponder non facilita i pirati? Beh, per alcuni aspetti facilita i pirati nel caso in cui la nave transita in determinate acque considerate così acque a rischio, cioè nella zona rossa, e possono essere quindi intercettate dalle stesse navi pirati che ormai quasi tutte hanno il radar e la possibilità di poter rilevare il segnale del trasponder. Ecco, insomma, questo parla nel momento in cui avviene l'attacco, perciò abbiamo sempre fatto adottare alle navi la soluzione di non accendere il trasponder quando si chiarissimo in queste zone pericolose, però nel momento in cui c'è l'attacco va assolutamente riattivato per poter segnalare. Chiarissimo, chiarissimo Di Folco. Devo interrompere, il GR incombe giustamente. Grazie a Filippo Reggi, Nadia Zammitti, Laura Faggina, un saluto da Giampaolo Musumeci, ci risentiamo sabato prossimo.